La conferenza è ancora in corso, cosa sta succedendo sinora? La cosa positiva della giornata è stata che l'Etiopia ha annunciato la sua ratifica del Trattato di Ottawa, quindi sono oggi 144 i paesi al mondo che hanno messo al bando l'uso, la produzione e lo stoccaggio delle mine. E' importante questo dato perché nell'Africa subsahariana rimane ormai soltanto un paese al di fuori del Trattato di Ottawa, che è la Somalia. Quindi un grande passo avanti per l'Africa, che è, ricordiamolo, il continente più minato al mondo. Sono almeno 20 i paesi africani minati e rappresentano circa un quarto dei paesi minati in tutto il mondo. Vi aspettate altre adesioni? Ma probabilmente durante questa conferenza no, però ci sono stati dei segnali positivi negli ultimi tempi, soprattutto da parte della Polonia, che ha annunciato in settembre che avrebbe avviato il processo interno di ratifica dopo che sono cadute le opposizioni che duravano da anni da parte del Ministero della Difesa, e anche la Lettonia è sulla strada buona per accedere al trattato. Quindi se Lettonia e Polonia aderiscono al trattato, in Europa rimarrà soltanto la Finlandia ancora fuori, diciamo, da questa dalla messa al bando delle mine. Invece, per quanto riguarda paesi come la Cina, la Russia e gli Stati Uniti, i cui arsenali sono ancora pieni di mine antiuomo. La Cina è presente a questa conferenza, non ci si aspetta nessuna grande sorpresa, però è un segnale positivo che la Cina decida di partecipare agli incontri degli stati parte del Trattato di Ottawa, per quanto come osservatore, è un segnale di apertura. La prima volta che hanno partecipato è stato l'anno scorso, quindi questo è un ritorno e si può sperare che sia un'indicazione positiva, anche se la Cina continua a dire di avere ancora bisogno delle mine per difendere i propri confini, però è un segnale, diciamo, di un movimento nella direzione giusta. Russia e Stati Uniti invece creano molte più preoccupazioni. Gli Stati Uniti hanno dichiarato ufficialmente a febbraio che non aderiranno mai alla Convenzione di Ottawa e che si riservano il diritto di usare le mine quando lo ritengano appropriato, e facendo l'unica concessione che dal 2010 useranno le cosiddette mine intelligenti, cioè quelle che si autodistruggono dopo un certo periodo, che però onestamente presentano gli stessi problemi di carattere umanitario delle mine normali. È ironico, è un po' ridicolo quasi, che gli Stati Uniti, contestualmente a questo annuncio, abbiano annunciato un aumento delle risorse che dedicano all'azione contro le mine nel mondo. Quindi da una parte contribuiscono a creare il problema della contaminazione da mine nel mondo e dall'altra invece poi dedicano risorse a risolverlo. E infine la Russia fa uso di mine in Cecenia e non dà nessun segnale, diciamo, di volere in tempi brevi aderire alla convenzione, purtroppo. Quindi il bilancio di questa prima giornata com'è? Il bilancio della prima giornata è sicuramente positivo da questo punto di vista dell'adesione dell'Etiopia. Il vivo dei lavori comincerà nei prossimi giorni. Ci si aspetta qualcosa di particolare soprattutto nelle ultime due giornate, giovedì e venerdì, quando prenderanno la parola gli altri rappresentanti dei diversi paesi. Per l'Italia sarà presente il sottosegretario agli affari esteri Alfredo Mantica. Ed è, diciamo, da quelle giornate che ci si aspetta che esca il rinnovato impegno da parte degli stati che hanno aderito al Trattato di Ottawa per intraprendere tutte le azioni che verranno identificate come necessarie, e noi come campagna internazionale per la messa al bando delle mine speriamo che siano azioni concrete, diciamo, non semplicemente dichiarazioni di principio o di intenti, per raggiungere questo obiettivo di un mondo libero dalle mine, che dà anche il titolo a questa conferenza. Quindi, diciamo, verso la fine della settimana speriamo che si ottengano dei veri impegni dal punto di vista sia politico, nella promozione dell'adesione al trattato da parte di tutti gli stati, e anche della promozione della messa al bando delle mine con i gruppi armati non statali, che sono sempre più quelli che usano le mine veramente, ma anche dal punto di vista pratico, dal punto di vista delle risorse da dedicare sia alla bonifica dei territori minati, che appunto sono ancora 83 paesi che soffrono di questo problema, e vuol dire milioni e milioni di persone che convivono quotidianamente con l'incubo di calpestare una mina, e anche da dedicare all'assistenza alle vittime, che è un'assistenza che non si limita soltanto al momento del pronto soccorso o al limite a dotare la vittima di una protesi, delle stampelle, di una sedia a rotelle, ma si tratta di cercare di reintegrare nel lungo termine le persone che hanno sofferto un incidente da mina perché possano ricostruirsi una vita quanto più normale possibile.